Episodio 12. 5. Ascolta la conversazione. Matera, ci siamo arrivati dopo un lungo viaggio, dopo una lunga giornata. Arrivati a Matera, siamo andati a pranzo. Prima cosa. La prima cosa. Tipico, no? Che era importante, tipico, sì, il viaggio. E il pranzo. Il pranzo. Il pranzo era in questo ristorante con affaccio sui sassi. Quindi i sassi, che sono i sassi? I sassi sono questa situazione abitativa della gente di Matera. Ci vivono ancora? No. Ah, sono per legge, ah. Per legge, per legge è vietato vivere nei sassi. C'è un recupero dei sassi, si stanno ristrutturando i sassi, però vengono utilizzati oggi per attività commerciali. Quindi ci sono dei negozi, quindi ci sono dei negozi, o per attività professionali, quindi ci sono degli studi e degli uffici. Però non ci, non si, non può, ci si può vivere, non no, lo sapevo. Non ci si può vivere. Uh-huh. E i sassi che sono? I sassi sono delle case che non sono case, perché non sono costruite, ma sono scavate. Sono scavate all'interno delle rocce o della roccia, che è una roccia calcarea, ma abbastanza facile da lavorare. E buie dentro, immagino, perché da come tu ne parli io immagino qualcosa di scuro, poche finestre, o no? Ma diciamo che sì. La finestra è una. Una finestra. La finestra. C'è una porta d'ingresso e c'è finestra. Una finestra che si trova sopra la porta d'ingresso. Classico. Classico, sì. E sì, perché poi tutto si sviluppa in profondità. Ma dentro la luce come arriva allora? Dentro le altre stanze, quando tu entri dalla porta, poi hai una sola finestra, entrando, poi la luce, niente. Ma diciamo che se non c'è una illuminazione, che può essere quella elettrica, o che può essere quella artificiale, c'è buio. Buio? Non esiste un'illuminazione, cioè non esistono prese di luce come le prese dall'esterno. Di luce che tu puoi avere in una qualsiasi altra situazione abitativa che può essere un appartamento in un condominio, o che può essere una capanna o una casa semplice di campagna. Certo. E l'interno di un sasso, o l'interno abitativo di un sasso, principalmente consiste in una unica stanza. Una stanza. In una unica stanza dove si svolge tutto l'ambiente e la vita familiare. Secondo te è giustificato tutto questa, giustificata questa rivalutazione che c'è, l'hanno reso patrimonio dell'umanità? Cioè sì. È veramente così attraente, bello, oppure è stata un po' una delusione? No. No. No. No. No, non è stato sicuramente una delusione. Vederlo forse mi ha fatto vedere o mi ha ricordato dei dettagli che magari poteva avere in un certo senso dimenticati, o che non erano così freschi nella mia memoria. Ma la cosa comunque che mi ha per certi versi fatto piacere nel ritornarci è quello dell'aver rivisto qualcosa che avevo vissuto in Turchia 2 anni fa. Ah, cioè che in c'è? Turchia c'è una... ci sono delle chiese rupestri, o ci sono dei conventi o dei luoghi di eremitaggio scavati nella roccia, e i sassi di Matera mi hanno ricordato questo. E a Matera, tra i sassi o tra queste varie... perché i sassi sono praticamente le case, il sasso è una casa, tra questi sassi ci sono anche delle chiese rupestri che sono state restaurate. E quindi è anche bello da un punto di vista artistico vedere l'espressione artistica all'interno di quello che è una chiesa sasso o un sasso chiesa. Certo. Hai trovato che c'è una vita notturna giovanile, oppure è una città un po' morta? Com'è, diciamo, la vita oggi di questa città? No, questo non te lo posso dire. perché noi siamo stati veramente poco a Matera. A Matera noi siamo stati il tempo del pranzo e della visita dei Sassi principalmente, non della Matera attuale. Della Matera dove si vive abbiamo visto solamente il corso e la piazza, ma niente di più. Essendo tardo pomeriggio c'era gente a passeggio, come in tutte le province italiane. Come in tutte le province italiane, ma non ti saprei dire se c'è una vita notturna. Da quello che ci diceva la guida, hanno una università e l'università comunque ha con sé quello che poi è una vita o un nucleo di studenti con tutto il loro contorno. Mm-hmm.